Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Dodicesima puntata. Ma Coffin proseguì con la storia. E così seppi che dopo l'assassinio di Egisto, Oreste si proclamò re e i seguaci di Egisto dovettero andare in esilio. Erigone tuttavia rimase. Erigone la immobile, disse Coffin, immobile davanti allo sguardo vuoto di Oreste. Solo la sua estrema bellezza riesce a placare per un istante il furore omicida del fratellastro. Una notte, smarrito, Oreste si infila nel suo letto e la viola. Alle prime luci del giorno Oreste si sveglia e si avvicina alla finestra. Il paesaggio lunare di Argo gli conferma quello che aveva già intuito. Si è innamorato di Erigone. Ma chi ha ucciso la propria madre non può amare nessuno, disse Coffin guardandomi negli occhi con un sorriso calcinato. E Oreste sa che Erigone è veleno per lui. Oltre ad avere nelle vene il sangue di Egisto, segni sufficienti per condannarla al sacrificio. Per giorni e giorni i seguaci di Oreste si danno a inseguire e a eliminare i seguaci di Egisto. La notte, come un drogato o come un ubriacone, le similitudini sono di Coffin. Oreste va in camera di Erigone e i due si amano. Alla fine Erigone resta incinta. Messa al corrente, Elettra si presenta davanti al fratello e gli fa notare gli inconvenienti della situazione. Erigone, dice Elettra, darà alla luce un nipote di Egisto. Ad Argo non c'è più nessun maschio che abbia il sangue dell'usurpatore. Oreste vuol forse permettere che per la sua debolezza spunti un nuovo virgulto dall'albero che lui stesso si è incaricato di tagliare? Ma è anche mio figlio, dice Oreste. È il nipote di Egisto, insiste Elettra. Così Oreste accetta i consigli della sorella e decide di uccidere Erigone. Ma vuole andare a letto con lei un'ultima volta e quella sera le fa visita. Erigone non sospetta nulla e si concede a Oreste senza paura. Anche se è giovane, non ha fatto fatica a imparare come va trattata la follia del nuovo re. Lo chiama fratello, fratello mio, lo supplica. A tratti finge di vederlo e a tratti finge di vedere solo una sagoma scura e solitaria, rifugiata in un angolo della sua camera. Era così che Coffin interpretava un deliquio amoroso. Un Oreste abbrutito prima dell'alba le confessa il suo piano. Le propone un'alternativa. Erigone deve lasciare Argo quella notte stessa. Oreste le procurerà una guida che l'accompagnerà fuori della città e la porterà lontano. Erigone, inorridita, lo osserva nel buio. Sono seduti ai due capi del letto. E pensa che nelle parole di Oreste si nasconda la sua sentenza di morte. La guida che suo fratello dice di essere pronto a procurarle sarà colui che eseguirà la sentenza. La paura le fa dire che preferisce restare in città, vicino a lui. Oreste si spazientisce. Se resti qui ti ucciderò, le dice. Gli dei mi hanno fatto impazzire. Parla del suo delitto, ancora una volta. E parla delle rinni e della vita che vuole condurre quando nella sua testa sarà tutto chiaro. E anche prima che sia tutto chiaro. Vuole una vita errabonda insieme al suo amico Pilade. Vuole girare la Grecia e diventare una leggenda. Vuole essere un beatnik. Non legarsi a nessun posto, fare della vita un'opera d'arte. Ma Erigone non capisce le parole di Oreste e teme che tutto obbedisca a un piano suggerito dalla cerebrale Elettra. Una forma di eutanasia. Un'uscita verso la notte che non macchi di sangue le mani del giovane re. La diffidenza di Erigone, amici miei, commosse Oreste, me lo disse Carlo Scoffin Serpas. Mi guardò negli occhi e me lo disse o me lo sussurrò. Parole come ostie taglienti, ostie bisturi. E poi disse che solo a partire da quel momento, cioè dopo essersi commosso, Oreste poté seriamente pensare a salvare Erigone dai pericoli che la minacciavano nella fumante Argo e che venivano in sostanza dalla sua follia, dal suo furore omicida, dalla sua vergogna, dal suo pentimento, da tutto ciò che Oreste chiamava il destino di Oreste, ma che era solo la via dell'autodistruzione. Così Oreste passò tutta la notte a parlare con Erigone e quella notte mise a nudo il suo cuore come non aveva mai fatto e alla fine, poco prima dell'alba, Erigone si lasciò convincere da così tante ragioni e così ben formulate e accettò la guida che Oreste le offriva e alle prime luci del giorno abbandonò la città. Da una torre Oreste la vide allontanarsi da Argo, poi chiuse gli occhi e quando li riaprì Erigone non era più da nessuna parte. Appena ebbe detto queste parole, Coffin chiuse gli occhi e io vidi la luna, piena, calante o crescente, non importava, che si spostava a infinita velocità su ciascuna delle piastrelle del bagno delle donne al quarto piano della facoltà di lettere e filosofia, nell'anno incolume 1968, e pensai, come avevo pensato prima e come penso adesso, che fare? Svignarsela? Senza aspettare che riaprisse gli occhi da quella casa che si stava sfasciando nel tunnel del tempo. Aspettare che riaprisse gli occhi e chiedergli il significato, se c'era, di quel passo della mitologia greca. Restare ferma e chiudere anch'io gli occhi con il pericolo che comportava, ossia che riaprendoli, invece di Coffin e dei quadri pieni di polvere, vedessi solo le piastrelle illuminate dalla luna che in quel mese di settembre luccicava sulla città universitaria. Dire a me stessa che adesso bisognava smetterla di giocare col fuoco e aprire gli occhi e salutare buonanotte o buongiorno e svignarsela per sempre da quella casa perduta su un orizzonte messicano di occhi chiusi, allungare la mano e toccare il volto di Coffin e dirgli col mio sguardo che avevo capito la storia, cosa assolutamente falsa, per poi avviarmi con passo sicuro verso la cucina e preparare un tè o meglio due infusi di tiglio. Potevo fare tutte queste cose. Alla fine non feci nulla e Coffin aprì gli occhi e mi guardò. «Tutto qui», disse. Cercò di sorridere, ma non ci riuscì. O forse quella smorfia o quel tic nervoso erano il suo modo di sorridere. Il resto della storia è abbastanza noto. Oreste parte in compagnia di Pilade. Durante uno dei suoi viaggi incontra la sorella Ifigenia, affronta delle avventure. La sua fama si estende a tutta la Grecia. Io fui sul punto di dirgli, quando menzionò Ifigenia, che avrebbe fatto meglio a tenersi lontano dalle sorelle. Erano veleno per lui, ma non lo dissi. E poi Coffin si alzò in piedi, come a farmi capire che era troppo tardi e che doveva rimettersi a lavorare, o a dormire, o a ricordare imprese greche in un angolo del salotto. Il problema era che io in quel momento avevo ricominciato a pensare a Erigone e di colpo mi accorsi di qualcosa nella storia che prima non avevo notato. Qualcosa, ma cosa? Così Coffin rimase impietrito nel suo gesto d'invito a uscire e io rimasi impietrita sul divano. Mentre il mio sguardo correva sul pavimento, sui mobili, sulla parete, sullo stesso Coffin, con l'espressione tipica di chi sta per ricordare qualcosa, di chi ha un nome sulla punta della lingua, un pensiero che inizia a svilupparsi in mezzo a scariche elettriche e fiumi di sangue, restando però come nell'ombra o informe, spaventato da se stesso, spaventato dall'ingranaggio che lo ha messo in marcia, o spaventato invece dall'effetto che inevitabilmente provocherà nell'ingranaggio, senza d'altra parte poter ritardare l'incontro, l'uscita, come se la parola Erigone, ripetuta fino a prendere la forma di una sorta di forcipe, lo stesse estraendo dalla sua caverna in mezzo a urla e risate involontarie e altre atrocità. E allora quando ancora non sapevo cos'era che avevo ricordato o pensato. Coffin disse che era molto tardi e lo vidi muoversi nervoso per il salotto, schivando con un'agilità che solo l'abitudine procura gli oggetti che in altri tempi avevano costituito il comfort e il lusso della casa di Lillian Serpas. «Crono!» dissi io. «Ho pensato alla storia di Crono. La conosci?» domandai con accento acuto. Più un modo per proteggermi che un improbabile eco rioplatense. «La storia di Crono, certo», disse Coffin, gli occhi velati da qualche solvente. «Non so perché ci ho pensato», dissi io per guadagnare tempo. «Non ha niente a che vedere con Oreste», disse Coffin. «Eh già», dissi io senza coprirmi la bocca e cercando in un disegno di Coffin appeso alla parete almeno un po' di eloquenza. Nel disegno si vedeva un uomo che camminava su una strada mentre le stelle che avevano gli occhi lo guardavano. Francamente non poteva essere peggiore. Francamente quel quadro non invitava all'eloquenza. Francamente mi sentì bloccata e per un momento mi parve come chi solleva la lama di un fulmine e vede cosa c'è dietro, che Coffin fosse Oreste e io Erigone, e che quelle ore di oscurità sarebbero diventate eterne. Cioè io non avrei più rivisto la luce del giorno, incenerita dallo sguardo nero del figlio di Lillian, che andò crescendo, ma non allargandosi, insieme alle mie supposizioni e ai miei timori, fino ad acquistare le dimensioni di una betulla o di una quercia, un albero enorme in mezzo a una notte enorme, l'unico albero nella solitudine della pampa che apriva i suoi occhi, gli occhi che avevano visto scomparire Erigone nella vastità dei tempi, e mi guardava. E quello che all'inizio era perplessità o semplice ignoranza, sguardo che scivola su uno sconosciuto o su un'incarnazione del caso, a poco si trasformò in uno sguardo di riconoscimento. E ciò che prima era perplessità divenne odio, astio, furore omicida. E allora capii e colsi al volo quello che mi era sfuggito. «Alt!» dissi. «Ora ricordo!» dissi. L'aria rarefatta dal volo di migliaia di insetti si schiarì. Coffin mi guardava. Io guardavo un aeroporto dove non c'erano aerei né persone, solo hangar, senza ombre e piste d'atterraggio, perché da quell'aeroporto partivano solo sogni e visioni. Era l'aeroporto degli ubriachi e dei drogati. E poi l'aeroporto svanì e al suo posto vidi gli occhi di Coffin che mi domandavano cos'è che mi ero ricordata. E io dissi: «Nulla. Nulla, vaneggiamenti, idee mie», feci per alzarmi perché a quel punto avevo deciso che era davvero ora di smetterla, ma Coffin mi posò una mano sulla spalla e mi trattenne. «Che sia fatta la volontà di Dio», pensai. Io non sono una donna religiosa, ma fu questo che pensai. E pensai anche: «Non vedrò la luce del nuovo giorno», che detto così suona piuttosto pacchiano, ma che pensato in quel momento suonava come il portico del mistero o qualcosa del genere. E stranamente non provai paura, ma sollievo, come se il fatto di rendermi conto di colpo di cosa mi era sfuggito nella storia di Erigone mi avesse anestetizzato. E anche se il salotto di Lillian Serpas non somigliava per nulla a una sala operatoria, mi sentii come se mi stessero portando in sala operatoria. Pensai: «Sono nel bagno delle donne della facoltà di lettere e filosofia e sono l'ultima persona rimasta». Andavo verso la sala operatoria. Andavo verso il parto della storia. E poi pensai: «Perché non sono scema? È finita. I reparti antisommossa se ne sono andati dall'università. Gli studenti sono morti a Tlatelolco. L'università ha riaperto i battenti, ma io sono rimasta qui rinchiusa, nel bagno del quarto piano, come se a furia di graffiare le piastrelle illuminate dalla luna avessi aperto una porta che non è il portico della tristezza nel continuum del tempo. Se ne sono andati tutti, tranne me. Sono tornati tutti, tranne me. La seconda affermazione era difficile da accettare, perché la verità è che non vedevo nessuno. E se tutti fossero tornati, li avrei visti. In realtà, se mi sforzavo, l'unica cosa che riuscivo a vedere erano gli occhi di Carlos Goffin Serpas. Ma la vaga certezza era ancora lì, mentre la mia barella correva nel corridoio. Un corridoio verde bosco, e a tratti verde mimetico militare, e a tratti verde bottiglia di vino, verso una sala operatoria che si dilatava nel tempo, mentre la storia annunciava, urlando a squarciagola, il suo parto, e i medici annunciavano sussurrando la mia anemia. Come si fa a operarsi di anemia, pensavo io. Avrò un figlio, dottore? Sussurravo facendo uno sforzo immenso. I medici mi guardavano dall'alto con le loro verdi mascherine da banditi e dicevano di no, mentre la barella andava sempre più veloce in un corridoio che serpeggiava come una vena fuori dal corpo. Davvero non sto per avere un figlio? Non sono incinta? Chiedevo. E i medici mi guardavano e dicevano: no, signora, la portiamo solo ad assistere al parto della storia. Ma perché tanta fretta, dottore? Mi viene il mal di mare, dicevo. E i medici rispondevano con la stessa solfa con cui si risponde a chi è in agonia: perché il parto della storia non aspetta, perché se arriviamo tardi non vedrà più niente, solo fumo e rovine, un paesaggio vuoto, e tornerà a essere sola per sempre, anche se esce ogni sera a ubriacarsi con i suoi amici poeti. Allora sbrighiamoci, dicevo io. L'anestesia mi dava alla testa come a volte mi dà alla testa la nostalgia, e smettevo per il momento di fare domande. Fissavo il soffitto e sentivo solo il rumore delle ruote di gomma della barella e le grida in sordina di altri malati, di altre vittime del pentotal sodico, questo pensavo, e sentivo persino un lieve e confortevole calduccio che risaliva lentamente le mie lunghe ossa gelate. Quando arrivammo in sala operatoria, la visione si appannò e poi si ruppe e poi cadde e si frantumò e poi un fulmine polverizzò i frantumi e poi il vento si portò via la polvere in mezzo al nulla o a Città del Messico. Era ora di aprire di nuovo gli occhi e dire qualcosa, qualunque cosa fosse, a Carlos Goffin Serpas. E quello che gli dissi fu che ormai era tardi e che dovevo andare, e Goffin mi guardò come se anche lui avesse visto qualcosa che di norma si vede solo nei sogni, e si allontanò bruscamente. «Tua madre arriverà domattina», dissi. «Va bene», disse Goffin senza guardarmi. Mi accompagnò alla porta. Mentre scendevo la prima rampa di scale mi voltai. Lui era ancora lì, sul pianerottolo, con la porta aperta a guardarmi. Mi coprì la bocca con la mano e iniziai a dirgli qualcosa, ma all'improvviso mi resi conto che stavo pronunciando solo sillabe incoerenti. Fu come se di colpo mi fossi rimbambita. Così rimasi a guardarlo con la mano sulla bocca, ma senza riuscire a dirgli nulla. Finché Goffin, con un gesto in cui era lecito scorgere paura e stanchezza, in parti uguali, chiuse la porta. Per qualche secondo rimasi immobile. Pensavo. Poi la luce delle scale si spense e cominciai a scendere piano, al buio, senza lasciare il corrimano. In Avenida Bolivar presi un taxi. Mentre ci dirigevamo verso il mio abbaino, che all'epoca era nel quartiere Escandon, mi misi a piangere. Il tassista mi guardò con la coda dell'occhio, sembrava un'iguana. Credo che abbia pensato che ero una puttana e che avevo avuto una brutta serata. «Non piangere, bionda», mi disse. «Non ne vale la pena, vedrai che domani vedi tutto in maniera diversa». «Non faccia il filosofo», gli risposi, «e guidi con prudenza». Quando scesi, avevo gli occhi asciutti. Mi preparai un tè, mi misi a leggere sdraiata sul letto, non ricordo cosa lessi, di sicuro non Pedro Garfias. Alla fine posai il libro e finii di bermi il tè al buio. Poi spuntò ancora una volta l'alba nella capitale del Messico.